alta voce. Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. 25esima puntata. Luca, con un gruppo di giovani e con gli anziani che avevano portato i carabinieri alla cavatella, si era allogato in una delle masserie degli Olmi. A pian terreno e nei locali dell'altra masseria, le donne avevano portato le pentole e i pagliericci. Tutti gli altri si erano sparsi nelle pagliaie da pastore che ancora costellavano le terre. Stavano in 20, 30, in pochi palmi di spazio. Verso mezzanotte la pioggia era cessata e il cielo buio aveva all'apice un sentore di luna. L'aria, che era stata tiepida e untuosa fino allora, si veniva facendo più fresca. «Vento del timbrone», disse Marco Cece esplorando il cielo. «Rompe le nuvole. Avremo un po' di sole domani». I ragazzi avevano raggiunto al buio i margini della macchia e avevano trovato degli stecchi rimasti all'asciutto sotto i tronchi delle querce. Dopo molti sforzi erano riusciti ad accenderli. Carluccio, Gianni e Ruberto, tre ragazzi dei Cirella, quattro dei Saccoccia, due dei Procaccitto, erano nella masseria con Luca. Saltabeccavano intorno alla fiamma ridendo e dandosi spintoni per portarsi in prima fila. Luca aveva dato anche ai ragazzi i suoi ordini. Allo spuntare del giorno dovevano andare ai margini della tenuta, verso Calena e alle masserie del Frassino per fare la guardia e avvertire se venivano agenti della forza pubblica. Carluccio lo aveva ascoltato senza battere ciglio, guardandolo con i suoi occhi immobilissimi. Poi aveva detto: «Ho capito tutto». Si era rifiutato di andare a dormire. Voleva anzi partire subito con i suoi compagni perché era convinto che i carabinieri avevano gridato. Quella notte erano certamente passati alla cavatella gli zingari che andavano a Vasto Mainarde per la fiera di Ogni Santi. I zingari avevano cavalli velocissimi. Uno, che si chiamava Pasqualuccio, aveva un cavallo che correva più di quello di Francesco Spataro. Ma Luca riuscì a persuadere Carluccio e i suoi compagni ad andare a stendersi sui sacchi di grano che erano stati posti lungo le pareti. Nella stanza c'erano anche i fratelli di Luca e suo padre. Erano andati nella masseria degli Olmi perché avevano pensato che i carabinieri sarebbero venuti per arrestare Luca e la macchia, che era vicina, poteva offrire un provvisorio rifugio. «Ci vogliono 100 carabinieri per circondare il bosco», diceva Seppe Marano. «Se poi uno passa il fiume e va verso le abetaie di Vasto Mainarde, chi lo prende più?» Immacolata Marano era riuscita finalmente a far mangiare Luca. Si era messa di fronte al figlio, seduta sul basto dell'asino, e lo guardava fisso, con espressione appassionata e tetra. Se gli capitava vicino, gli faceva una ruvida carezza sui capelli. Zio Filoteo era di ottimo umore. Seppe Marano aveva portato alcune fiasche di vino e l'ufficiale giudiziario aveva mangiato pane e formaggio e bevuto abbondantemente. Luca gli aveva detto, mentre camminavano per i viottoli per raggiungere le terre: «Ti ritireranno la patente, zio. Hai perso il pane». Filoteo faceva un gesto con la mano, come per dire che la cosa non aveva importanza. «Io seguirò la sorte generale. Il mio è un atto collegato con il vostro, l'ho scientemente collegato. Io ho sempre seguito la legge, ma questa volta la legge è entrata in conflitto con la giustizia e io ho scelto la giustizia». Luca lo sorreggeva con un gesto rapido ed energico quando Filoteo stava per scivolare nel fango. «Per completare il mio pensiero», aggiungeva ancora il natalizio, «ti dirò che le mie esitazioni derivavano da un moto privato del sentimento e da giuste considerazioni intorno alla prudenza. quando tu volevi presentare la cambiale in protesto dei nostri contadini alla Banca del Cielo, io non ero d'accordo con te. Ma ora la presentiamo alla Banca della Storia, concluse con voce trionfale, alzando il capo in alto. Inciampò e cadde. Luca lo aiutò a rialzarsi e gli disse, togliendogli un po' di fango dalle ginocchia: «È ancora lunga la strada. Adesso ti metto a cavallo». Fece fermare Giovanni Cirella, che aveva un mulo non troppo carico, piegò un ginocchio e con un moto abilissimo della destra, quando lo zio gli ebbe messo il piede sulla coscia, lo fece balzare sul basto. Quando fu a cavallo, il vecchio tacque e Luca, che aveva rallentato il passo per guardare indietro, lo perdette di vista. Dopo qualche istante lo scorse nella incerta luce dei tizzoni che i contadini agitavano per rischiarare la strada, gesticolare tra un gruppo di donne che lo seguivano a piedi. Evidentemente stava facendo uno dei suoi intricati, sibillini discorsi, ma badava anche a tenere fermo il cappelluccio che ogni tanto rischiava di cadergli. Ora Filoteo, dopo aver fumato per una mezz'ora silenziosamente, si era assopito e dormiva placido, con un respiro da bambino. Quando il freddo si fece più intenso, chiusero la porta. I ragazzi avevano finito con l'addormentarsi e anche Luca aveva ceduto a grado alla stanchezza. Dormivano tutti. Solo Immacolata Marano tentava di non perdere nella fiochissima luce del fuoco che andava spegnendosi il viso del figlio che dormiva. All'alba si sparsero per i campi. Erano arrivati anche una cinquantina di contadini di Pietrafolca che Luca aveva fatti avvertire durante la notte. Il cielo aveva nuvole alte che andavano rapidamente verso il sud. Il solicello di novembre faceva fumigare blandamente la terra. Gli uomini spargevano il seme attingendolo dalle sacche annodate alla cintola. Le donne sarchiavano con minuto, rapido zappettio per seppellire i chicchi. Luca girava per i campi e gli uomini dicevano «Buongiorno». Le donne esclamavano «È Luca!» e gli facevano un sorriso. «È tutti i santi oggi e c'è il sole!» disse Marco Cece a Luca. «Speriamo che il Signore ci benedica!» «Speriamo!» rispose Luca. «Ma stai attento, Marco. I carabinieri ti cercheranno. Sei troppo lontano da Macchialoreto. Non mi farò prendere in questi giorni, ma in galera ci andremo lo stesso. Ci verrai anche tu, Luca. Io le so queste cose. Ci sono già stato 7 anni per la rivoluzione che abbiamo fatto nel 98. In galera si diventa dotti come giudici. Prima di lasciare le terre li istruisco io, quelli che hanno legati i carabinieri. Non devono farsi imbrogliare. Se nessuno parla, siamo stati 1000 a legarli e 1000 hanno meno colpa di 1 o di 10. Luca aveva risposto che era giusto. Avrebbero trovato il modo di difendersi di fronte alle autorità. «Ho mandato un muratore alla stazione di Pesco», aggiunse Luca. «Ho fatto spedire un telegramma al prefetto per dirgli che i contadini di Morutri hanno intenzioni pacifiche e vogliono soltanto giustizia». Dopo qualche attimo aggiunse: «Marco, devi dire a quelli che te lo domandano che non si devono adoperare le armi. Non ci dobbiamo mettere dalla parte del torto». Marco continuava a spargere il seme e rispondeva di sì con la testa. Di tanto in tanto Luca veniva raggiunto da uno dei ragazzi. Si erano impadroniti delle giumente e dei muli e scorrazzavano in lungo e in largo per perlustrare i margini delle terre. «Non si vede nulla, Luca! Non c'è nulla, Luca!» Nel pomeriggio Carluccio raggiunse il giovane che stava nei pressi delle masserie degli Olmi e gli disse che 4 o 5 carabinieri rimontavano la costa dalla parte del Frassino. «Bisogna avvertire gli uomini», disse Luca. «Devono venire verso la macchia». «L'ho già fatto», rispose Carluccio. Luca vide, infatti, un gruppo di contadini che si dirigeva di corsa verso la Cappella del Sacramento, a destra delle masserie. Ma fino al tramonto i carabinieri non si fecero vivi. Quando calò la sera, i contadini rientrarono nei pagliai e nelle masserie e accesero i fuochi per la cena. Il tempo si manteneva sereno e col calare delle ombre cessò anche il vento. Luca aveva disposto un turno di guardia di 20 contadini che si sarebbero alternati durante la lunga notte di autunno. Ma neanche la seconda notte accadde nulla. Di primo mattino, il giorno seguente, Carluccio Gianni Roberto accompagnò alla masseria della Macchia Gesualdo, il canonico e Ferdinando. Luca, quando li vide, ebbe il suo primo sorriso allegro, dopo tanti giorni. Gesualdo trasse dalla tasca 2 pacchetti di sigarette e glieli porse. «Anche il canonico ha contribuito per l'acquisto», disse Gesualdo ridendo. Poi andò a sedersi su uno sgabello e fece a Luca il resoconto dei suoi tentativi. Aveva spedito 2 telegrammi dando il suo indirizzo, ma non aveva avuto risposta. «Se arriva qualche cosa, penserà mio padre a mandare qui qualcuno. Sono andato anche da Don Giacomo Fontana. Non c'è. Il sagrestano della cappella ha detto che è a Verona e starà fuori ancora tutto l'inverno». Gesualdo tacque. «C'è qualche altra cosa?» chiese Luca, inquieto. «Beh, diglielo tu, canonico», fece Gesualdo rivolto al compagno. «Tu la sai meglio». «Sai», disse il Pidio, «c'è questo. È tornato Pistalli da Roma. C'è anche il fratello. Appena arrivati si sono messi a fare il diavolo a 4. Giancarlo è venuto in divisa con un'altra 20 di persone che non sono di Calena. Ha detto che quello che succede alle terre fa vergogna alla città, che bisogna spazzar via in 2 ore questa inammissibile rivolta. Ieri sera sono stati alla Terra Vecchia per andare a picchiare quelli della società operaia, ma non li hanno trovati. Per la strada abbiamo incontrato Pasquale Ficetra, che viene zoppicando verso le terre. Ha detto che poi verranno anche gli altri». «E che può fare Pistalli?» chiese Luca. «Possono fare tutto adesso», disse il canonico. «Tu non leggi i giornali?» «Comandano loro. Pistalli ha detto che si è messo in comunicazione, non so con chi, che si sarebbe visto, se queste cose si possono fare ancora dopo la rivoluzione vittoriosa. Voleva mandare subito di rinforzo anche i soldati di Dentice. Ma Dentice ha 15 reclute arrivate da una settimana che non sanno maneggiare neanche la ramazza». «Non possono fare nulla», disse Luca. «Noi siamo sulle terre da 6 mesi e ci stiamo anche oggi. Gli sfratti non sono stati notificati, legalmente non possono agire. Possono arrestare me e altri 10 contadini per oltraggio, resistenza alla forza pubblica, lesioni o altro che il diavolo se li porti. E poi non possono fare più nulla. Le donne zappano e basta». Gesualdo scuoteva il capo, il canonico taceva pensieroso. In quel momento Ferdinando disse: «Arriva gente». Era un gruppo di operai della Terra Vecchia. Uno raccontò che erano arrivati a Calena a rinforzi di carabinieri. C'erano 2 camion di fascisti alla stazione di Pesco che si avviavano verso Morutri. L'avevano saputo da un commesso viaggiatore che era passato in motocicletta sulla provinciale. Per qualche ora non accadde nulla, ma i contadini che erano sparsi per i campi alzavano ogni tanto il capo, inquieti. «Se vengono, che fai, Luca?» chiese Gesualdo. «Non hanno il diritto di venire. Noi siamo sui campi a lavorare. E poi», aggiunse, «siamo tanti. E loro lo sanno che siamo tanti». «Ma sono armati. E voi non avete armi». «Che dovremmo fare, secondo te?» disse Luca. «Andarcene per paura? Lo sai che se andiamo via qui non ci metteremo più piede», aggiunse con asprezza. «Tu, se hai paura, puoi andartene». Gesualdo disse calmo, guardandolo con gli occhi illuminati dal suo sorriso ambiguo: «Io non ho paura». Videro in quel momento venire a galoppo verso di loro Carluccio Gianni Roberto. Spuntava da un gruppo di querciuoli dalla parte della Macchia. Il ragazzo smontò da cavallo a precipizio. Era tanto l'affanno della corsa che non riusciva a parlare. Disse finalmente: «Mi hanno sparato. Mi hanno sparato per fermarmi. Chi? Fece Luca. Non so. Vengono dalla parte del fiume. Hanno la camicia nera e i gambali. Non mi hanno preso. Volevano che io mi fermassi, ma io sono corso a dirtelo. Sono molti? Chiese Luca. Una ventina. Io ne ho visti una ventina. Ci circondano, disse Luca. Ci tagliano la strada del bosco. Da tutte le parti accorrevano contadini verso le masserie degli olmi. Arrivò Antonacci seguito da Michele Marano e da Carmine Amicarelli. I tre uomini avevano un moschetto a tracolla. «Sono quelli dei carabinieri», disse Antonacci. «Li abbiamo portati». «Via quelle armi!» disse Luca furente. «Non dobbiamo adoperare le armi!» «Ma hanno sparato a Carluccio!» disse Antonacci. «E noi che facciamo? Li aspettiamo con le braccia incrociate?» «Tre fucili! Avete in tutto tre fucili! Volete battervi con tre fucili? Siete pazzi!» Intanto, intorno a lui, il gruppo degli uomini andava facendosi più folto. Alcuni che venivano dalle parti di Cecanibbio dicevano che avevano udito il rumore dei camion che si arrampicavano verso il Frassino. Dal nord, dalla parte di Calena, arrivò un altro gruppo di operai che avevano lavorato durante l'estate alle masserie di Macchia Loreto. «Io dico», fece uno, «ci chiudiamo dentro le masserie con le armi, solo noi uomini, e se vengono spariamo. Abbiamo portato i revolver anche noi, Luca». Luca era al centro del gruppo e pareva ascoltasse i pareri di tutti quegli uomini che si stringevano intorno a lui inquieti. All'improvviso, dalla parte di Morutri, si vide un correre affannato di donne. I gruppetti sparsi che erano ancora tra i campi raccolsero un grido disperato, lontano, e lo trasmisero di greppo in greppo. Le donne si levavano, guardavano verso l'alto e trasmettevano l'urlo. Luca disse, rivolto ad Antonacci: «Voi che avete le armi, entrate nella macchia. La macchia è grande, potete nascondervi. Sparate in aria ogni tanto per trattenerli, per fargli paura. Io devo andare laggiù, devo andare a vedere che succede». Luca s'avviò per l'ascesa di corsa. Gesualdo disse: «Veniamo con te, Luca, ti potrebbe succedere qualche cosa». Luca, continuando a correre, disse: «Venite». Dopo qualche centinaio di passi incontrarono delle donne che rimontavano la costa gridando. Una disse: «Hanno ammazzato Marco Cece». Luca e i compagni continuarono a correre a perdifiato. Calavano nelle vallette, rimontavano sulle serre, attraversavano macchie di rovi e di lentisco, ma non riuscivano ancora a vedere nulla. Quando raggiunsero Cecanibbio, videro a un centinaio di passi gruppetti sparsi di fascisti e di donne e di contadini che si azzuffavano. Le donne indietreggiavano lentamente, difendendosi come iene a colpi di zappa. Un gruppo di uomini a destra e un altro a sinistra si erano appiattati dietro una trincea di pietre scavate nell'estate e facevano piovere una gragnuola di sassi sugli assalitori. Verso Morutri si sentiva a tratti dietro una collina il crepitio delle armi da fuoco. Luca continuava a correre con impeto affannato. Gesualdo e gli altri lo seguivano a stento. «Qui, Luca!» fece Gesualdo ad un tratto. «Qui c'è un muro per ripararsi». In quel momento, di fronte, spuntò un gruppo di fascisti. Gesualdo, il canonico e Ferdinando tirarono contro quelli che avanzavano. Luca si chinò, raccolse il suo primo sasso e lo lanciò. Sentì un urlo di dolore. Un altro gruppo di fascisti spuntò a destra, ma fu costretto a ritirarsi da una gragnuola che partiva da un altro cumulo di pietre dietro il quale si erano appiattati altri contadini accorsi dai margini orientali della tenuta. Luca si chinava rapido, raccoglieva le sue pietre, mirava calmo, le scagliava sotto mano e le mandava sibilando contro il bersaglio. A destra, a un tratto, Carponi, con il respiro corto, si vide arrivare Marco Cece. Aveva una ferita sulla testa e il viso imbrattato di sangue. Arrivato dietro alla maceria, si rialzò sulle ginocchia malferme. Volevano picchiare le donne, disse a Luca, e mi sono difeso con la zappa. Hai sangue sulla faccia, disse Luca. Credevano di avermi ammazzato, ma è duro, Marco Cece, disse il vecchio con voce fioca. Qui si udì il grido di Gesualdo. Giù, Luca! Ma Luca e Marco Cece erano stramazzati con la schiena rotta, senza un grido, con le braccia levate. Gesualdo si volse sul fianco. I suoi occhi si fecero sottili come lame. Estrasse il revolver dalla tasca interna della giacca, si appoggiò sul gomito e scaricò l'arma sui due fascisti che avanzavano con le pistole in pugno. Quando vide un altro gruppo che avanzava urlando verso la maceria, si alzò in piedi e scaricò tutti gli altri colpi. Poi si piegò sulle ginocchia, facendo sangue da 10 ferite. Il canonico era rimasto incollato al fango. Sollevò il capo e lo guardò con occhi appannati. Pensò che era strano che Gesualdo, così pallido, avesse tanto sangue rosso. Arrivarono i carabinieri e i soldati. Incatenarono tutti gli uomini che venivano con le mani nude e i visi chiusi dallo spasimo verso il punto dove era caduto Luca Marano. Immacolata scendeva lentamente, seguita dal corteo delle altre donne, mugolando. Da tutti i lati delle terre venivano le donne e si raccoglievano intorno alla maceria. Luca, Gesualdo e Marco Cece furono adagiati sulle pietre. Gesualdo si era svuotato di tutto il suo sangue ed era compatto come un sasso. Luca aveva l'ombra della giovane barba sul viso e ancora un debole incarnato sulle gote. Marco, le orbite profonde dei cadaveri antichi. Davanti alla maceria c'era la pozza del loro sangue che la terra fradicia non riusciva a bere. Immacolata Marano alzò le mani al cielo con un urlo e si inginocchiò nel fango. Poi tacque con la testa bassa e fissava la pozza di sangue. Le donne la presero sotto le ascelle e la trassero indietro. Poi fecero siepe dei loro corpi ai congiunti degli uccisi. Rimasero mute a guardare i morti finché la cima del timbrone non cancellò l'ultima luce. Quando la notte divenne buia, i vecchi accesero i fuochi alle spalle dei morti. A un tratto, Immacolata Marano urlò: «Luca! Oh, Luca!» E si mise le mani intrecciate sul capo, dondolando sul busto. «Luca! Spada brillante!» gridò una voce giovanile. «Spada brillante!» ripeterono in coro le altre. «Stai sulla terra sanguinante!» Via, via, le donne si misero le mani intrecciate sulle teste. Altre presero le cocche dei fazzoletti nei pugni chiusi e li percuotevano facendo «Oh, oh, spada brillante! Stai sulla terra sanguinante! T'hanno ammazzato, Luca Marano! A tradimento, Luca Marano! Non lo vuole la terra, il tuo sangue cristiano! Difendevi le terre del sacramento, erano nostre, nostre le terre, avevamo le ossa per testamento, le avevamo scavate con le nostre mani, t'hanno ucciso Luca Marano, piangete anche Marco Cece, è morto anche Marco Cece stasera, era vecchio e aveva patito fatica, fame e galera. Morte e galera su Morutri, le donne sole col pianto, a lavorare le donne soltanto. Piangete donne, domani con la zappa in mano non si piange. Luca Marano, spada brillante, stai sulla terra sanguinante. Non piantate zappa e bidente sul sangue cristiano, è il sangue di Luca Marano. Aveva la luce nella mente e gli occhi di stella. E Gesualdo era suo fratello. Torneremo sulle terre maledette. Il sangue avvelena l'acqua santa. Ci verremo senza messa. I figli vogliono pane, anche se è pane di Satanasso. Non bestemmiate, donne cristiane, per noi fame e dannazione, ma per i figli paradiso e pane. Torneremo al sacramento, saremo serve, saremo, ma avremo di lutto il vestimento. Per tutti gli anni che durerà buio e galera, vestiremo il panno nero. Piansero e cantarono grande parte della notte, rimandandosi le voci, parlando tra loro con ritmo lungo, promettendo tutto il loro dolore ai morti. La notte era buia e le voci si perdevano sulla terra desolata, oltre il circolo di luce che faceva il fuoco ancora vivo. Sandro Lombardi ha letto Le terre del sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.